Si può cominciare a spiegarci da cosa è partito il suo lavoro, la sua ricerca su un'opera così monumentale come quella che troviamo? Sì, intanto grazie per l'intervista. Dunque, la mostra si intitola Aldo Mondino, Lorenzo Puglisi, La Resistenza. Ci sono due grandi lavori, un'opera storica di Aldo Mondino di quasi 6 metri di lunghezza, che si intitola Festa Araba, esposta alla Biennale del 2006, se non sbaglio, del 96, se non sbaglio. E un mio dipinto che si intitola Il grande sacrificio, una tela di 7 metri e mezzo, la più grande realizzata mai su questo soggetto. La mia pittura è presto spiegata, nel senso che un lungo percorso più che ventennale, nel quale ho tentato di andare così, forse anche non consapevolmente, verso quello che definisco l'essenziale della rappresentazione. E dunque vi sono questi volti e queste mani che appaiono da un'oscurità, da un mistero, come da dentro, e diventano, mi auguro di poter dire, densi sulla superficie della tela. Sono i punti dove la natura e l'energia dell'essere umano si manifestano con più forza. Sono anche quelli visibili, perché girando noi vestiti in effetti si vedono principalmente a livello di carne le mani e i volti. Trovo che tutto questo possa creare uno straniamento, ma genera anche uno shock necessario e utile a un momento di riflessione. Lo smarrimento può, di fronte al nuovo, e sicuramente quello che faccio è nuovo, questo smarrimento può portare a delle nuove maniere di guardare le cose. Per me è una pittura di realismo, nel senso che mentre ti guardo il resto non c'è, i rumori svaniscono, non so che cosa stai facendo con la mano, non ho consapevolezza di me. Insomma, è abbastanza esaustiva della condizione in cui vivo e da quello che vedo anche gli altri, siccome gli esseri umani sono tutti uguali, anche gli altri vivono questa condizione di buio. E poi è anche un auspicio per una ricerca di un silenzio che possa essere come uno sfondo più neutro in questa rumorosa e meravigliosa vita che caoticamente ci coinvolge, per vedere più chiaramente quello che è la realtà, ma la realtà non solo soggettiva, che non è reale, appunto, è illusoria, ma la realtà come il fatto che esistiamo e che l'altro, il diverso da me, esiste e ha una vita che va rispettata. E da qui la resistenza può prendere tante, tante sfaccettature, non solo la grande ricorrenza storica dell'ottantesimo anniversario della liberazione, la cui memoria l'Istituto Parri, in cui siamo ospitati, custodisce da tanto tempo. Può dirci due parole sulla sua parte del dialogo con l'opera della Festa Araba? Beh, Aldo Mondino è un grande maestro italiano e conoscevo Aldo molto bene. Con l'archivio abbiamo deciso di fare alcune mostre insieme. C'è un'unità di intenti che non è a tutti chiara, ma lo sta diventando, perché Aldo, nonostante un approccio goliardico, una grande ironia, una grande intelligenza, aveva una grande serietà su temi anche di carattere mistico. Infatti i dervisci rotanti, la serie degli arabi, degli ebrei, insomma c'è una grande ricerca raccolta in preghiera, tanti segnali che la sua vita era guidata da una ricerca che lui affrontava con leggerezza. Io nel mio piccolo anche ho questo mio tentativo di andare più a fondo nelle cose, di cercare una dimensione altra. Per quanto riguarda la pittura c'è questa risoluzione del fondo che nel mio caso è omogeneo e nel caso di Aldo è molte volte una superficie omogenea appunto di linoleum, e ne consegue una rarefazione della pittura, una esemplificazione del segno, una qualità quasi zen, quasi metodica nella applicazione della pittura, che anche nel caso di Aldo è assolutamente essenziale e di grande forza espressiva.